in primo piano. Lunedì 25 luglio sui giornali oggi c'è molta cronaca anche per certo l'attentato in Norvegia, ancora con tanti riflessi, ma non solo, anche il grande incendio alla stazione Roma Tiburtina, che davvero ha creato e creerà notevoli disagi anche nei prossimi giorni. Cari ascoltatori, se dovete prendere il treno, informatevi. Ma vediamo una rapida carrellata dei titoli per il Sole 24 Ore. Ancora uno speciale manovra, processo fiscale verso la paralisi, 3.000 giudici professionisti in uscita. Questo l'allarme oggi in base alla manovra lanciata dal Sole 24 Ore, poi lo vedremo. Per il Corriere della Sera si concentra sulla Norvegia, la confessione del killer. Così Repubblica, io, il mostro più grande, Oslo, l'assassino, ha messo in rete il suo piano prima della strage. Per la Stampa anche la strage annunciata sul web, meglio ammazzarne tanti. Il Giornale, contro Berlusconi la trappola dei banchieri. De Benedetti, Bazzoli, Prodi e Passera sponsorizzano un governo Monti. Per il Messaggero, che mette in grande risalto l'incendio alla stazione Tiburtina, treni nel caos, anche il titolo sulla Norvegia, la strage annunciata sul web. Così il Secolo XIX, memoriale del killer, minacce a Italia e al Papa. Per l'Unità, pericolo destra estrema, sempre ovviamente riferito alla Norvegia. Mentre vacanze bruciate, questo è il titolo del quotidiano nazionale, c'è sullo sfondo il rogo alla stazione Tiburtina. Allora, vediamo due segnalazioni da cui voglio partire. La prima è un articolo di Gian Antonio Stella, racconto di uno spaccato dell'Università Italiana, in prima pagina del Corriere della Sera, largo ai giovani 56enni. Di Gian Antonio Stella racconta la storia di che cosa? Di un giovane ricercatore che va per la sessantina e non capisce dunque perché l'Università di Urbino abbia delle perplessità sulla sua assunzione e minaccia sfracelli ricorrendo al TAR. È la storia del dottor Angelo Giuliani, nato nel 1955, che partecipa alle prove di selezione per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze ambientali. Il suo sogno d'altronde è sempre stato quello di entrare all'università. E allora a dicembre scorso fa un concorso, i posti a disposizione sono 6, 3 dotati di una borsa di studio, 3 senza. Vince il concorso, quando però portano da firmare gli atti del concorso al rettore, il rettore dell'Ateneo Marchigiano, lo storico Stefano Pivato, è perplesso. Tra le carte degli esami, infatti, c'è scritto che i dottorati di ricerca non sono stati istituiti per favorire l'ingresso nel mondo della ricerca ai giovani laureati, giovani. Certo, la legge non fissa un'esplicita età massima per concorrere a questo genere di posizioni, dando in qualche modo per scontato che ai concorsi partecipino davvero i giovani. Tuttavia, per una questione di buonsenso, il rettore blocca tutto, perché il vincitore ha appunto 56 anni. Il concorso si blocca. Una serie di corsi, ricorsi, controricorsi finiscono davanti al TAR. Il giovane 56enne firma un ricorso gonfio di sommo stupore, di indignazione per l'evidentemente strumentale ostruzionistica condotta di astensione e omissione dell'Università di Urbino, nonché per la sbalorditiva condotta in fatto e in diritto tenuta dal rettore e dai dirigenti. Lo stesso Angelo Giuliani ammette che sotto il profilo del buon senso non ha molto senso, e scusate il gioco di parole, scrive Stella, dare a un signore avviato verso la sessantina, per quanto bravo e preparato sia, un posto da ricercatore destinato ad aprire le porte dell'università a un ragazzo o a una ragazza altrimenti a spasso, tanto più se l'aspirante ricercatore 56enne ha già un posto di lavoro, lavora all'ASL. E beh, insomma, ma questo è anche uno spaccato che racconta Gian Antonio Stella: se un 56enne vince il concorso per giovani ricercatori universitari. Il rettore blocca tutto, ma lui fa ricorso. La legge non ammette e non mette limiti. Chi ha ragione? In punto di vista del diritto, certo, lui il concorso l'ha vinto. Il limite d'età non c'è. Ma un po' più frivola la situazione, anche se ha creato qualche polemica, a Campiano, in provincia di Ravenna, dove la festa del Partito Democratico, per ravvivare un pochino la festa del Partito Democratico, hanno pensato bene di fare un bello spogliarello. Hanno chiamato tale Jessica, professionista di questo tipo di manifestazioni artistiche. E vabbè, che cosa è successo? Ma come? Lo spogliarello, le donne nude alla festa del Partito Democratico? Esibizione sexy alla festa democratica, le donne protestano? Ma lo show raddoppia, così titola Repubblica, oppure il quotidiano nazionale, spogliarello sexy alla festa del PD, protestano le donne, ci ha offeso. E beh, perché quando si è sparsa la voce, ma come? A un certo punto le donne del movimento, se non ora quando, si sono ribellate, hanno detto ma la mercificazione del corpo della donna, così su un palco alla festa del Partito Democratico, noi che ci battiamo contro certi ideali, noi che ci battiamo per certi principi. Addirittura si è alzata l'assessore provinciale alla sanità di Ravenna, Emanuela Giangrandi, che ha detto annulliamo questo striptease e proiettiamo invece il documentario Il corpo delle donne, per capire. Al che il web si è un po' ribellato, ha detto sì, e perché non ci fate vedere la corazzata Potemkin durante la festa del Partito Democratico? Risultato, lo spogliarello c'è stato, lo spettacolo c'è stato, gran successone, qualche polemica, forse un po' rientrata. Sta di fatto che l'ira del movimento, se non ora quando, sull'evento a Campiano, è stata così un po' annullata con questo spettacolo di striptease, di cui su Repubblica, ma anche sul Corriere, sul Quotidiano Nazionale, potrete vedere delle fantastiche foto del momento clou, ovviamente. Alle 7:32 minuti, allora diamo uno sguardo ai giornali, continuiamo a dare uno sguardo ai giornali, ripartendo dalla politica. Come detto, la politica, tra l'altro, è il tema del nostro sondaggio, ne parleremo alle 8:30 dei rapporti Lega-Popolo della Libertà. Vi chiediamo, secondo voi, se andrà a elezioni anticipate? Questo ha scongiurato anche ieri il ministro Maroni, dicendo finiremo la legislatura nel 2013. Tra l'altro, proprio ieri, chi ha letto Repubblica avrà trovato un'intervista al presidente della Camera Fini, che ha detto aperto anche a un possibile nuovo governo con a capo proprio il ministro dell'interno Maroni. Per la verità le reazioni sono state molto fredde da parte della politica. Maroni ha definito come irricevibile e si è mostrato indifferente a questa proposta. Il Partito Democratico dice no, mai un nuovo governo guidato da un ex ministro del governo Berlusconi. Insomma, diciamo che il Popolo della Libertà ovviamente dice per carità, il governo è questo. Sta di fatto che secondo Repubblica, secondo Francesco Bei e Liana Milella, pagina 15, il retroscena della politica, Berlusconi ritiene che Fini abbia fatto uscire Maroni allo scoperto con questa intervista, l'ha costretto a smentire brutalmente ogni velleità di ribaltone e così ci ha fatto un favore. Ora Berlusconi ricuce con il colle, questo è il titolo dell'articolo, Napolitano non avvallerà mai ribaltoni. Avrebbe detto Berlusconi, non avvalerà mai manovre di palazzo che possano mettere a rischio l'Italia la collocazione dei titoli di Stato. Se le agenzie di rating fiutano il sangue, per noi è finita, e questo sul colle lo sanno bene. Tra l'altro dovrebbe essere questa la settimana della nomina del nuovo guardasigilli, il nuovo ministro della giustizia al posto di Angelino Alfano, anche se c'è un nuovo impasse. Secondo Repubblica i dubbi sono su Nitto Palma, Francesco Nitto Palma, che è sottosegretario agli interni e che è uno dei papabili, sale invece in quotazione Donato Bruno come possibile ministro alla giustizia. Staremo di certo a vedere. Come detto, Maroni rassicura così fino al 2013, così titola il Corriere della Sera, pagina 13, cioè ieri in una manifestazione a Lezzeno, in provincia di Como, dove Umberto Bossi si è concentrato anche sulla guerra in Libia, che ha detto finisce a metà settembre, è stato il presidente della Repubblica a volerla, così ha detto Bossi, se no Berlusconi mica andava a fare una guerra per tirare quattro bombe, anzi onestamente devo dire che Berlusconi non la voleva. Beh, insomma, sapete che poi quando si va a queste manifestazioni della Lega, Umberto Bossi dice delle cose anche che poi suscitano polemiche. Settimana scorsa aveva detto la secessione è la strada giusta. Questa volta sulla posizione sulla guerra in Libia ha detto Bossi è stato il presidente della Repubblica a volerla. Berlusconi non la voleva. Per quel che riguarda invece le ipotesi appunto del nuovo governo guidato da Maroni, gli occhi puntati, racconta Marco Cremonesi sul Corriere, sono proprio tutti sul ministro dell'Interno, che si dice indifferente, consapevole che si tratta di posizioni strumentali queste. Anche per Repubblica, Maroni, lavoro per arrivare al 2013. Sta di fatto che le polemiche su un possibile nuovo esecutivo ci sono. Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico, intervistata da Repubblica, rilancia da Goffredo De Marchis: siamo disposti a un solo unico ulteriore gesto responsabile, aprire una fase di transizione con un governo del Presidente della Repubblica guidato da una personalità esterna all'attuale maggioranza. Insomma, Rosy Bindi dice le elezioni, se no questa fase di transizione, ma certo basta sia Berlusconi e basta governi guidati eventualmente da ex ministri di Berlusconi o attuali ministri di Berlusconi. E con il nome di Mario Monti, che torna ancora prepotentemente alla ribalta nella domanda a Rosy Bindi, che una persona come Monti possa avere il profilo giusto non sono solo io a pensarlo, ma non avanziamo nomi, saremmo disponibili a un governo che ci chiede il Presidente della Repubblica, questo posso dire. Così dice Rosy Bindi, anche se Mario Monti è davvero il protagonista, almeno nel titolo del giornale. Il titolo è questo: la trappola dei banchieri contro Berlusconi. Il giornale riprende con Alessandro Sallusti, il suo direttore, l'articolo di ieri della Stampa di Fabio Martini. Racconta il direttore Sallusti: la Stampa ieri ha raccontato e ricostruito l'incontro avvenuto lunedì scorso in uno dei templi della finanza milanese, nel quartier generale oggi di Banca Intesa, il cui vertice Giovanni Bazzoli e Corrado Passera si è intrattenuto con Romano Prodi, Carlo De Benedetti e Mario Monti, economista, presidente della Bocconi, per due volte ministro europeo, a disegnare un possibile dopo Berlusconi, dove il dopo, nelle speranze dei convenuti, è ormai dietro l'angolo, certamente prima della fine naturale della legislatura. Al riparo dei riflettori, insomma, Prodi, Tesse e i grandi poteri ammiccano, perpetuando in un conflitto di interessi grande come una casa, in confronto al quale quello di Berlusconi appare piccola cosa. Così scrive Alessandro Sallusti sul giornale. Grandi banche, il giornale partito Repubblica e la sinistra che conta starebbero cercando di spingere, secondo la ricostruzione della Stampa, per un governo di emergenza guidato da Mario Monti. Ecco dunque che rispunta il nome di Mario Monti, con l'ex ministro Antonio Martino, intervistato dal giornale a pagina 3, che dice: i governi tecnici rappresentano un vergognoso tradimento della volontà popolare. Togliatti sosteneva che sono i peggiori di tutti i governi reazionari. E di Mario Monti dice Martino: faccio una premessa, se Monti ha ottenuto l'incarico di commissario europeo lo deve a me. Non mi sono pentito, come commissario ha fatto onore all'Italia. Insomma, il tema è sempre quello: governo tecnico, non governo tecnico. È un po' un balletto anche che forse stanca un po' gli italiani, che dalla politica vorrebbero altre risposte. Anche per l'Unità, il PD mai in un governo guidato da un ex ministro di Berlusconi. Mentre il ministro Calderoli, intervistato dalla Stampa da Ugo Magri a pagina 11, fa una lunga intervista, un'intera pagina: il nuovo guardasigilli, uno che non parli con i legali del Premier. Così dice Calderoli, che sulla proposta Maroni Premier dice no grazie. Si capisce che il vero candidato sarebbe Monti. Eccolo qui che rispunta. E noi non siamo così sciocchi da ingoiare polpette avvelenate. Insomma, dicono Maroni Premier, ma vorrebbero Monti. E quindi ci terremo ancora Berlusconi, chiede Ugo Magri. Bisogna considerarlo un dato scontato. Questa maggioranza esiste e resiste intorno al nome di Berlusconi. Qualunque altra formula sarebbe un ribaltone. Eppure ci sono tensioni tra voi e Berlusconi, tensioni inevitabili, specie su certe materie, dice Calderoli. Per esempio la giustizia. La Lega ha votato con certe leggi per dovere di coalizione, spirito di lealtà. Ricordo che su Papa da un mese Bossi diceva di sì all'arresto. Berlusconi conosceva perfettamente le nostre difficoltà in questo campo. Ed ecco, per esempio, mi auguro che il nuovo guardasigilli sia una persona di assoluta onestà intellettuale e totale libertà di giudizio, la quale si dimentichi di parlare con gli avvocati del Premier, altrimenti vengono fuori frittate come la leggina sul lodo Mondadori, che io ho subito definito incostituzionale. Insomma, così il ministro Calderoli, che comunque dice c'è certo qualche problema con il Popolo della Libertà. Mentre certo dall'altra parte la situazione PD è ancora una situazione di tensione, di polemiche. Beh, intanto l'inchiesta che pare allargarsi e che coinvolge come indagato il Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano, uomo forte di Bersani al nord, fanno ora titolare i giornali sulla tanto annosa questione della diversità o della questione morale o della diversità proprio del centro-sinistra, diversità a rischio nel PD. Questo per esempio è il titolo del Corriere, le inchieste, l'imbarazzo, turbamento, imbarazzo, ma anche rivendicazione di una diversità che non è più un dato acquisito come un tempo, ma che si esplicita nella reazione alle vicende che riguardano il partito. Niente grida di complotto, niente attacchi frontali alla magistratura, ma piuttosto dimissioni o autosospensioni dagli incarichi. L'ex sindaco di Torino, Chiamparino, dice che questa diversità va riconquistata, questa idea di superiorità morale. Fioroni dice no, per esempio, a qualsiasi tesi di superiorità morale, l'autonomia della magistratura va praticata. E ci sono nuove voci, insomma, l'imprenditore di Caterina che denuncia: davo 30 milioni di lire al mese per 10 anni al partito di Penati. C'è Di Pietro che dice al Corriere della Sera: sì, è vero, parlai con Gabriele Albertini, che da sindaco di Milano nel 2005 mi disse: guarda che qui c'è qualcosa che non va. Io vidi le carte e le studiai e dissi a Gabriele: vai e fai denuncia. Ai tempi miei, cioè quando stavo in procura io, con una cosa così tra le mani ci si apriva l'inchiesta, si incriminava qualcuno e forse lo si arrestava anche. Adesso per i miei colleghi è tutto più difficile, siamo all'ingegnerizzazione della corruzione. I malandrini si sono fatti più furbi, arrivare a dimostrare il reato non è facile, però sta cosa è strana. Fa denuncia, sono con te. Così Di Pietro ricorda, dice: io dissi a Gabriele Albertini, che mi fece vedere le carte da sindaco di Milano su alcune presunte operazioni fatte dalla provincia di Milano, allora a capo c'era Filippo Penati, che non gli erano piaciute, vidi quelle carte e dissi effettivamente a Gabriele Albertini: vai e fai denuncia, perché secondo me qua ci sono gli estremi per qualcosa di illecito. Mentre si distingue l'attuale sindaco di Sesto San Giovanni, Oldrini, che riguardo ai due grandi accusatori, che lui non nomina mai in questa breve chiacchierata con Andrea Galli del Corriere della Sera, ma che sono Pasini e Di Caterina, i due imprenditori che dicono di aver dato tanti soldi al Partito Democratico, beh, dice questa frase spettacolare: davvero non voglio offendere nessuno, ma lei lo sa che queste due persone a volte fanno perfino fatica a pagare un caffè? Insomma, sono dei tirchi. Diciamo che non sono noti per sborsare soldi senza pensarci, rifletterci, esitare. E invece qui, secondo l'inchiesta, avrebbero versato milioni e milioni. Ma magari mi sbaglio io, ricordo male, chi lo sa. Insomma, Oldrini che mette questa possibile interpretazione. Milioni e milioni? Sono talmente tirchi che non hanno mai pagato o fanno fatica a pagare anche un caffè. Mentre invece imperversa ancora il senatore tedesco, quello salvato dal Partito Democratico, del Partito Democratico, salvato dal Senato alla richiesta di arresti domiciliari, che ora non passa giorno che non si tolga dei sassolini contro il suo stesso partito. Dal PD non mi hanno neanche chiamato, come si farebbe con una colf che si licenzia. Mi hanno chiesto le dimissioni a mezzo stampa. Oggi è la volta della stampa con Francesca Schianchi, che ne raccoglie i malumori. Polemizzo con Rosi Bindi perché è il presidente del partito. Dice che non vuole vedere turbato il partito da un ex socialista. Questo lo dice lunga sulla cultura garantista della signorina Bindi. Se si è socialisti, si è delinquenti per definizione. Perché non chiedono le dimissioni anche a Penati? E ancora: ma se devo chiedere alla mia colf di andarsene, la chiamo e glielo dico. Potevano almeno chiamarmi, sentire cosa ho da dire. Poi vedo tutti che si scoprono contrari alla custodia cautelare. Cosa ha impedito al PD finora di proporne una modifica limitandola ai casi di rischio di danno irreparabile? Vabbè, insomma, un senatore tedesco che dice comunque, ribadisce, non mi dimetto, rimango in Senato, per carità. Mentre due segnalazioni prima del traffico sull'antipolitica e la casta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Daniela Santanchè che dice: chiedo al presidente Berlusconi di mettersi alla guida di una rivolta contro i costi della politica e fare un predellino anticasta. Intervistata da Francesco Bei su Repubblica. Dice la Santanchè, d'altronde è proprio Berlusconi il simbolo dell'anticasta. Mentre, simbolo questo senza dubbio, è il sindaco di Sondrio. Il quotidiano nazionale racconta soldi finiti e il sindaco va in giro a piedi. A Sondrio ci sono solo 3 Fiat Panda per il municipio, ma altro che auto blu, 3 Fiat Panda in tutto il municipio, non esiste una sola utenza di telefono cellulare in dotazione ad alcun amministratore e il sindaco di Sondrio, in Valtellina, in Lombardia, che quando è davvero in difficoltà dice: sapete che faccio? Mi faccio delle gran camminate a piedi. Beh, avete sentito disagi per quel che riguarda l'incendio scoppiato alla stazione di Roma Tiburtina, disagi che peraltro il sindaco di Roma dice potrebbero durare per un mese intero. Beh, davvero, la stazione in fiamme ferma l'Italia, questo è il titolo più azzeccato del Corriere della Sera, incendio a Tiburtina spento dopo 15 ore, questo a pagina 10, un incendio le cui cause sono molto probabilmente non dolose, però certo bisognerà accertare. Il dato di fatto è che c'è anche una polemica, come racconta il Corriere, tra Alemanno, il sindaco, e le ferrovie. Una tensione scoppiata ieri nel pomeriggio alle 17, stazione Termini, riunione tra i responsabili del trasporto romano. C'è Alemanno, i suoi assessori, dirigenti dell'ATAC. Non si vede invece il numero uno delle ferrovie, Moretti. Il sindaco lo chiama al cellulare con toni bruschi. Adesso ci dovete far capire cosa è successo. Moretti all'altro capo del telefono: in cassa, stiamo facendo gli accertamenti, non abbiamo ancora risposte precise. E sta di fatto che poi c'è la polemica sulle spese, dal comune sono perentori, noi la fattura la facciamo, la invieremo sia alle ferrovie che alla regione. Infatti il Corriere titola così: Alemanno alle ferrovie, ora pagherete tutto voi. È un gioiello da 320 milioni Roma Tiburtina, che ha mandato veramente in tilt, perché è uno snodo cruciale per tutti i treni, ovviamente da nord a sud, e dunque per il Corriere ritardi per tutta la settimana. Secondo il Messaggero, Alemanno si sarebbe spinto a dire le ripercussioni si vedranno per un mese. C'è l'odissea ovviamente raccontata di tutti i pendolari, il Palermo-Milano ci ha messo 6 ore di carrozze bloccate, treni nel caos, ritardi di ore, l'Italia spaccata in due. Questo titola per esempio il Messaggero a pagina 3. Il Messaggero comprensibilmente apre sulle pagine 2 e 3 su questi temi. Sta di fatto che l'unica, veramente, cari ascoltatori, se dovete prendere un treno anche nei prossimi giorni, è di informarvi con largo anticipo, perché le ripercussioni, soprattutto da oggi quando riprendono i pendolari, e soprattutto poi nei prossimi giorni quando ci saranno tanti spostamenti legati alle vacanze, i problemi potrebbero davvero essere ancora notevoli. Oh, c'è moltissimo ovviamente per quel che riguarda la pagina estera, e molti giornali ci aprono ancora su quello che è stata la strage a Oslo in Norvegia, dove ormai si profila uno scenario in cui una sola persona, questo killer, che da 9 anni, incredibilmente da 9 anni, progettava, metteva sul web carte, ha pubblicato un vero e proprio memoriale di 1500 pagine, nel quale se la prende anche con il Papa, se la prende anche con l'Italia, pare comprensibilmente ben informato su quella che è anche la politica italiana. Anders Behring Breivik insomma dedica questo suo manifesto testamento dicendo: ho speso 9 anni di vita per questo progetto, il progetto era uccidere più persone possibili. tanto che il Corriere si chiede a pagina 6 in un'intera pagina: il killer poteva essere fermato prima? Beh, certo, non c'è stato un monitoraggio un po' morbido, nessuno si è accorto evidentemente di quello che stava partorendo la mente folle di questo soggetto che ha ucciso 91, pare 91, ma ci sono ancora dei dispersi. Molte delle vittime sono ragazzi, tra l'altro a pagina 4 della Stampa, sotto la dicitura vite spezzate, ci sono anche le prime foto di giovani ragazzi che erano tutti radunati a questa convention del partito su quest'isola. E tra l'altro, incredibilmente, racconta Repubblica, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, questa persona rischia 21 anni di carcere, perché 21 anni di carcere è la pena massima prevista dalla legge norvegese. Per molti ovviamente partono già le polemiche, sono troppo pochi 21 anni di carcere per aver ucciso oltre 90, forse 91, forse più persone. Sta di fatto, anzi forse almeno 93, questo è il numero finora accertato. Sta di fatto che, insomma, 21 anni di carcere, beh, è davvero poco, ma è il massimo della pena in Norvegia. Cosa voglio citare? Voglio citare dal Sole 24 Ore questa notizia legata alla manovra, processo fiscale verso la paralisi. È in apertura perché Giovanni Parente e Serena Riselli raccontano di come la parola paralisi non è un tabù, anzi la stretta sulle incompatibilità introdotta dalla manovra rischia di portare entro fine anno uno svuotamento delle commissioni tributarie. I tribunali del fisco si svuotano. Pensate che secondo le stime del Sole 24 Ore tra il 40 e l'80% dei giudici attualmente in servizio tra primo e secondo grado rischiano di essere sostituiti. Potrebbero essere costretti a imboccare l'uscita dei tribunali fino a 3.000 giudici su un totale di 3.700. Sono incompatibili infatti gli iscritti ad albi professionali, non solo commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro, ma anche ingegneri, architetti, geometri e altri ancora. E poi la stretta riguarda chi esercita consulenza tributaria. Diventa più rigida la norma sui familiari, addio al posto di giudice se si è parenti entro il terzo grado di professionisti iscritti agli albi. Insomma, questa stretta sulla manovra rischia di portare le commissioni tributarie, i tribunali del fisco al svuotamento, perché circa l'80% dei giudici rischiano di dover insomma lasciare. Trovate molto anche sul debito pubblico americano, ma non c'è tempo, io ve lo segnalo, sulle trattative frenetiche in America per cercare di evitare le polemiche e il default. Il 2 agosto è la data nella quale o l'America riesce a dare un segnale al mondo oppure rischia di andare in default. C'è il problema per cui i repubblicani tengono la maggioranza alla Camera, ma ovviamente la maggioranza del governo è Obama e democratica, quindi bisogna trovare, si fa fatica a trovare un accordo in questo senso. E come trovate ancora molte pagine sulla scomparsa di Amy Winehouse, cantante, qualcuno già dice cantante maledetta, anche lei come Jimi Hendrix, come Jim Morrison, come Kurt Cobain, Janis Joplin, Brian Jones, anche lei morta a 27 anni. Un cocktail di ecstasy e coca, l'ultima notte di Amy Winehouse. La madre dice: mi aspettavo questa fine, anche se di recente sembrava avesse smesso, o meglio allentato, il problema con la droga, ma dice: è come guardare un incidente stradale, sai come finirà, è solo una questione di tempo. E di fatto, insomma, una voce fantastica, ma una vita tribolata, per usare un eufemismo. Anche Repubblica dedica 3 pagine: morte di una rock star nella pagina, un inserto culturale di Repubblica, droga, alcol, eccessi, la vita spericolata di Amy Winehouse sembra uscita dagli anni 70, ora tutti a raccontare che era delusa perché era stata lasciata dall'ultimo fidanzato, la madre che dice: l'ultimo giorno è stata con me, mi sembrava persa, poi sulla porta di casa mi ha salutato dicendo: mamma, ti voglio bene, sono le parole che terrò sempre con me. In ogni caso, Amy Winehouse, trovate tante pagine sulla sua scomparsa. Infine, la Gazzetta dello Sport: abbiamo una fede immensa, questo è il titolo, con foto giustamente dedicata a Federica Pellegrini, ancora campionessa mondiale sui 400 stile libero. Ci fermiamo per il giornale radio.